Siamo? Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti così numerosi, che ultimamente non capita spesso, quindi significa che l'argomento è quantomeno sentito. Oggi parleremo del rigassificatore e poi avremo una serie di interventi che spiegheranno cos'è il rigassificatore nello specifico, quali sono le problematiche che sono adesso connesse, perché comunque si è formato un comitato per il no al progetto di rigassificatore di Falconara. Questa è un'assemblea che è nata a seguito di un incontro che è avvenuto prevalentemente sulle pagine web tra alcuni consiglieri comunali di Senigallia e un comitato di cittadini e consiglieri anche in qualche caso di Falconara, perché comunque hanno ritenuto forse che eravamo più sensibili noi di Senigallia rispetto ad altri amministratori magari del loro comune o ad altri che avevano altri problemi, insomma, oltre che occuparsi del rigassificatore. Quindi noi a Senigallia abbiamo votato quasi all'unanimità un ordine del giorno per dire no al Consiglio Comunale, per dire no al rigassificatore di Falconara, e la Giunta e il Sindaco che è qui presente si sono impegnati a portare, insomma, questa istanza poi in Regione, che sarà quella che dovrà poi decidere nel merito se dar vita o meno al progetto. Adesso passerei la parola a Maurizio Mangialardi, che ci spiega magari la riunione che hanno avuto oggi a Falconara, qui erano presenti il sindaco di Senigallia, di Ancona, Montemarciano, Chiara Valle e basta. E un rappresentante della provincia. Sì, grazie.